voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Grom, due imprenditori e molti gelati, di Alessandra Tedesco e Alessandra Scaglioni. La storia d'impresa di oggi è a due voci, riguarda un marchio noto ed è una di quelle storie che vengono definite da manuale. Il marchio è Grom, produce gelati. È nato 9 anni fa da due soci non ancora trentenni, con un investimento di poco più di 100.000 euro. Oggi fattura 30 milioni di euro e ha 55 punti vendita nel mondo. L'idea da cui sono partiti Guido Martinetti, enologo, e Federico Grom, analista finanziario, era apparentemente semplice. Ma in realtà l'idea del concetto, cioè l'idea di aprire alcune gelaterie è di Federico. La mia è un'idea, come dire, a priori di questa evoluzione commerciale, che è semplicemente quella di acquistare le migliori materie prime, gestire l'agricoltura e utilizzarle per fare il gelato come si faceva una volta, come suggeriva Carlin Petrini nell'articolo che ho letto e che mi ha ispirato. Quindi solo con prodotti di stagione e senza additivi. È stata quindi un'idea semplicissima ed è un'idea che è anche buffa, nel senso che per innovare bisognava tornare indietro di 50 anni. E questo è un tema interessante, perché dal punto di vista imprenditoriale delle volte dobbiamo guardare indietro a dei lavori fatti con più calma, con più cura, con più attenzione, con più rispetto dei tempi che richiedono questi lavori, quindi professionalità per evolvere quel tema che ci interessa. Le due competenze si integravano perfettamente, la produzione per Guido e la gestione per Federico. Ma in quel momento noi eravamo davvero i primi, era un mercato che sembrava saturo, tanti amici, tanti conoscenti allora ci dicevano: ma come, aprite una gelateria, ma ce ne sono mille. In effetti era un mercato vergine in quella nicchia di qualità, altre catene non ce n'erano, e grazie a Dio fino ad oggi catene sviluppate con negozi diretti che possono competere con noi sono ancora in itinere, in corso di nascita. Quindi siamo fortunati ad essere stati i primi e speriamo di mantenere col lavoro, con la qualità del prodotto, questo gap rispetto agli inseguitori. Gli investimenti iniziali sono molto bassi, messi insieme dai soci con l'aiuto delle banche. Ma la fortuna enorme è stata di avere l'idea del gelato e quindi di poter aprire una gelateria che può essere un negozio di 25 metri quadri e che prevede un investimento bassissimo, minimo. Noi avevamo entrambi meno di 30 anni, Guido 27, io 28, non avevamo risorse personali, poco più di 30.000 euro io e zero Guido. Guido ha fatto un mutuo che ha finito di pagare dopo 5 anni, era il 2008 ormai il pagamento dell'ultima rata, che aveva garantito con un terzo dello stipendio, e siamo partiti con un capitale iniziale di 32.500 euro a testa. Abbiamo messo insieme 65.000 euro e poi siamo andati dalle banche, dalle principali banche, anzi direi dalla principale banca torinese, a chiedere un prestito per partire. Ci hanno dato fiducia, hanno dato fiducia a due giovani, allora con una grande idea e con pochi soldi, e ci hanno permesso di arrivare dove siamo oggi. L'idea funziona subito e supera le previsioni. No, Guido inizialmente mi parlò di questa idea di eccellenza nelle materie prime per fare il gelato. Fin dal principio io ho provato a prendere spunto da questa sua visione e a trasformare questa idea in un business plan, in un piano d'impresa che prevedeva fin dal primo giorno un'ipotesi di 6 aperture in 5 anni. Avevamo voglia di fare gli imprenditori nel mondo del gelato più che i bottegai, e la fortuna ci ha davvero aiutato e ci ha portato molto più in là rispetto agli obiettivi iniziali. Grazie a Dio il business plan iniziale era completamente sbagliato, me lo posso dire, l'ho fatto io, non ha centrato neanche un numero, sono stati sempre superati. L'impresa è decollata, ma questo non vuol dire che siano mancate difficoltà o errori, soprattutto all'inizio. Ma ce ne sono state moltissime, fin dal principio ce ne sono tutti i giorni e ce ne saranno da domani in avanti, certamente. Fare impresa prevede necessariamente l'affrontare dei nuovi temi, imparare tante cose, e in qualche modo sia io che Guido pensiamo che l'errore, quando è fatto con tutto l'entusiasmo, con tutta la passione, con il massimo sforzo, un grande errore fatto bene deve essere premiato. Molto meno che un successo mediocre. Ecco, il successo mediocre non deve essere premiato, al contrario. La prima difficoltà, quella più rilevante, è stata proprio all'inizio della nostra avventura. Noi abbiamo iniziato aprendo questo primo piccolo punto vendita a Torino sperando e pensando di poter continuare a fare i nostri vecchi lavori. Guido faceva l'enologo, io mi occupavo di finanza in un'azienda. Abbiamo quindi individuato una persona che doveva fare il direttore di negozio. Questo simpatico ragazzo ebbe un incidente in motorino e non così grave, ma fu costretto a restare assente dal luogo di lavoro per 2 mesi e noi fummo a nostra volta costretti ad andare di notte a produrre il gelato. Beh, quello fu certamente un momento molto difficile, molto duro, molto impegnativo, perché dovevamo lavorare le nostre 10-12 ore nel lavoro quotidiano e poi fino alle 3-4 di notte producevamo il gelato. Dicevo, è stato costruttivo perché di fronte alla difficoltà ci sono venute nuove idee e abbiamo affrontato poi il futuro con maggiore consapevolezza di quello che succedeva all'interno del punto vendita. Oggi le gelaterie sono 55 in tutto il mondo, in 34 città italiane grandi e piccole e all'estero, negli Stati Uniti, in Giappone e in Francia. La prima gelateria è quella che citava Fede nel centro di Torino, in piazza Paleocapa, vicino alla stazione Porta Nuova. Poi siamo stati fermi 2 anni per accumulare la liquidità necessaria per gli investimenti successivi. La seconda è stata a Milano, vicino a Piazzale Baracca, e la terza a Genova, in via San Vincenzo. Buffo, una abbiamo trovato il locale su internet, l'altra l'abbiamo trovata camminando per Genova in una delle tante attività in franchising sugli immobili. C'era questa agenzia di viaggi che c'è dell'attività e lì è stato. Poi sono arrivate Parma, Firenze e Padova e di lì poi pian pianino abbiamo sempre reinvestito tutto e questo ha creato un circolo virtuoso per poter crescere anche davanti alle banche, che hanno visto appunto che non abbiamo mai cambiato stile di vita, che il nostro stipendio è relativamente modesto e quindi questo ha dato la credibilità necessaria appunto per finanziare lo sviluppo. Tenendo conto del modello produttivo e dell'organizzazione, la soluzione preferita da Grom è stata quella di gestire direttamente tutti i punti vendita. È un rapporto particolarmente stretto, direi quasi da sposati, perché tutte le gelaterie sono nostre, ad esclusione di una piccola finestra temporale, quella del 2005, dove abbiamo aperto a 3 partner che sono entrati in affiliazione commerciale e quella finestra si è chiusa alla fine del 2005. Quindi la nostra struttura, la nostra idea è quella di sviluppare negozi direttamente, dove abbiamo la fortuna di avere tanti collaboratori che ci aiutano e ci permettono di essere qua. Li ho chiamati collaboratori e non dipendenti, perché ci sentiamo più noi dipendere da loro che non il contrario. È un'idea che in qualche modo ci sentiamo obbligati a percorrere, perché avendo come mission quello di fare il miglior gelato del mondo, questo è il nostro obiettivo ultimo, non lo raggiungeremo mai, ma certamente ci alziamo presto tutte le mattine per sperare di realizzarlo. Non possiamo pensare di fare franchising perché i nostri tempi di crescita sono legati ai tempi dell'agricoltura. Allora noi, se oggi piantiamo un albero di pesco, le prime pesche le raccoglieremo fra 4 anni e sarà a totale capacità produttiva fra 5, magari di più. Abbiamo bisogno quindi di seguire i tempi della natura e non i tempi della finanza, ma in qualche modo questo è sano, è molto più sano rispetto ai tempi che ci hanno insegnato in passato illustri finanzieri che ci hanno portato poi alla situazione attuale. La scelta del gelato naturale prevede un meccanismo di produzione con costi da valutare con attenzione. Ma guarda, dipende moltissimo dalla materia prima che andiamo a prendere in considerazione. Ovviamente un'agricoltura di altissima qualità ma davvero non è il concetto di biologico o meno, è il concetto di fare basse rese per ettaro e di non utilizzare la chimica, neanche in agricoltura, ha dei costi che sono circa il triplo. Basti dire che le varietà di fragole di una volta più piccole, molto più profumate e che si possono utilizzare ancora oggi, basta piantarle e coltivarle, hanno delle rese di un terzo rispetto a quelle attuali, laddove il peso del frutto è molto medio e molto più elevato. Questo comporta dei costi molto superiori. Allora, nella frutta questa gestione costa il triplo circa. Nelle cosiddette creme, con i prodotti come latte, uova, panna, c'è un costo più elevato, direi ridotto, direi del 30% più elevato rispetto alla situazione che ipotizzavi tu. La filiera prevede collaborazioni con aziende agricole vicine o importazione di materie prime dall'estero a seconda del tipo di prodotto e con l'impostazione generale di seguire la stagionalità. Dipende dalla tipologia di frutto che prendiamo in considerazione. Laddove pensiamo di poter migliorare nel momento in cui gestiamo noi l'agricoltura, ciò avviene. Abbiamo un'azienda agricola che si chiama Muramura, che si trova a Costigliole d'Asti e dove invito tutti a venire perché è un posto magico nella sua semplicità, di agricoltura davvero virtuosa. Laddove invece questo non può accadere, penso agli agrumi che fanno benissimo per esempio nel sud Italia, penso al cacao e al caffè che compriamo in Centro America e così via, questi prodotti, il segreto diventa lavorare gomito a gomito con agricoltori seri e professionali che sappiano darci ciò che desideriamo. Tutto questo naturalmente poi deve essere remunerato in modo opportuno, perché a fare le nozze con i fichi secchi non ci si riesce. Quindi bisogna mettersi in testa che il lavoro agricolo va ben remunerato e questo è molto importante, cioè spendere un po' di meno per il telefonino e magari un po' di più per un buon frutto, una buona verdura e un buon cioccolato. Guido Martinetti e Federico Grom hanno creduto da subito che il progetto sarebbe decollato e hanno raccontato la loro storia in un libro che, dicono, vuole essere anche una spinta all'ottimismo per i nuovi imprenditori che decidono di mettersi in gioco. Fin dal principio noi siamo sempre stati ottimisti, è necessario essere ottimisti da imprenditore, ma il libro vuole dare anche uno spunto di ottimismo a tutti i ragazzi che oggi questa forza verso il futuro l'hanno persa. Noi abbiamo aperto questo primo punto vendita che era maggio del 2003. Quest'anno compiamo 9 anni e quindi stiamo finendo le scuole elementari, non è che siamo davvero molto maturi. È stato un momento dopo 2 mesi che sono usciti alcuni articoli di giornali e noi ci siamo ritrovati con la coda di fronte al negozio inaspettatamente. Quel successo immediato ci ha fatto quasi esplodere, non eravamo pronti ad affrontarlo, ma nel nostro ottimismo ci siamo detti: ma allora forse è un'idea che funziona, dobbiamo investire la nostra vita, la nostra passione, il nostro tempo in quest'idea, e abbiamo pianificato la crescita futura, che poi visto dopo un paio d'anni l'apertura di un laboratorio e l'inaugurazione di 5 nuovi punti vendita. I numeri al momento confermano. La crescita del fatturato è stata esponenziale. La società è ormai una minuscola multinazionale, nel senso che abbiamo alcuni punti vendita in Italia, il 90% della nostra rete, 4 punti vendita negli Stati Uniti, 3 a New York e 1 a Los Angeles, a Malibu, 1 a Parigi e 4 in Giappone. Il fatturato consolidato quest'anno, nell'anno in corso, sarà di circa 30 milioni di euro, con un picco massimo di dipendenti di 600-650 dipendenti nel momento più caldo dell'estate. È ovviamente un business stagionale, quindi in estate abbiamo più collaboratori, ripeto, non dipendenti, che in inverno. Questi sono i numeri macro, direi, della società. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.